Convocati di Carlo Genta. Marc Márquez sgondola ancora prima di consegnarlo per la quinta volta titolo di campione del mondo. Questa moto che è stata tanto discussa ad inizio stagione, ma che per la verità il suo sporco lavoro l'ha fatto alla grandissima tra le mani di questo giovane fenomeno che diventa campione del mondo. Si volta dietro, non c'è nessuno, manda calci di allegria verso il muretto. Márquez c'è ed è campione del mondo. Non mi aspettavo qua, giovedì già ti ho detto è impossibile, domenica, perché deve succedere tante cose, ma sono molto molto contento perché dai, questo campionato abbiamo lottato tantissimo, Valentino è stato molto forte, Lorenzo anche, ma bene dai, vincerlo qua, Giappone, anche abbiamo ha fatto una gara molto molto buona e dopo di l'anno scorso, di tutti quegli errori che ho fatto, era importante vincere questo anno e lo abbiamo fatto. Dopo un buon weekend, Paul di ieri, anche oggi in gara, sicuramente con Márquez sarebbe stato difficile, però più o meno come passo eravamo lì. Purtroppo sono caduto, è stata veramente, non me l'aspettavo. È stato un grande peccato perché andiamo a casa a mani vuote. Questo l'epilogo. Allora, ieri vi avevamo parlato di Formula 1 e di quattro personaggi in cerca d'autore. Oggi facciamo lo stesso con il Moto Mondiale, con The Voice, Roberto Ungaro. Ciao Roby. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Questo è solo l'epilogo, dicevamo, di un mondiale. Primo personaggio che non ha bisogno di autore è Marc Márquez, che non farà come Nico Rosberg. Purtroppo abbiamo questa sfiga che Márquez non ha annunciato il ritiro e non lo farà per chissà quanto tempo. È solo all'inizio. Grande impresa la sua però, perché all'inizio stagione aveva difficoltà con una moto non a posto, che non ha saputo reagire ai nuovi regolamenti, o meglio, i nuovi regolamenti hanno un po' penalizzato la Honda, che aveva scelto un assetto e un motore particolare per questa stagione, quindi ha dovuto rincorrere all'inizio, però abbiamo visto un Márquez ragioniere, usare molto la testa, cosa che in passato non aveva fatto, e quindi come una formichina pian piano ha messo via risultato dopo risultato, punti necessari per stare davanti e conquistare il titolo meritatissimo, perché in Giappone è vero che è arrivato prima del previsto, ma è stato un titolo che se lo è conquistato con grande merito. Sai cosa mi viene in mente? In questa stagione tutti stavamo aspettando al pronti via un regolamento di conti, no? È vero, Márquez e Rossi, stavamo aspettando sportellate, gomitate, ginocchia contro dell'uno contro l'altro. Alla fine non abbiamo mai visto niente di assolutamente tutto questo. Invece ha prevalso lo sport, il protagonista è stato il nuovo regolamento, la nuova elettronica e le nuove gomme. Questo ha permesso che ci siano stati veramente tanti vincitori, tanti outsider che sono riusciti a vincere anche per la prima volta, ricordiamoci di Iannone e Vignales. E io direi questo, Carlo, ci sono sempre stati i fantastici quattro, ma sì, è cambiato uno di questi quattro protagonisti, perché direi che al posto di un Dani Pedrosa, che anche se ha vinto una gara però non è mai stato incisivo, c'è il nuovo che avanza, che si chiama Vignales. Che si chiama Vignales, infatti è uno dei nostri quattro personaggi. Adesso sentiamo il grande sconfitto Valentino Rossi. Mi sembra ingeneroso e ingiusto definirlo così. Ha fatto un grande mondiale, ha corso in maniera meravigliosa, però probabilmente quell'altro in questa stagione era troppo forte, lo dice lui stesso. Ma è stato un anno abbastanza positivo perché è stato un bel campionato, sono stato competitivo e mi è dispiaciuto non lottare più vicino a Márquez per il campionato, perché ho fatto degli errori, sono stato un po' sfortunato. Mi sarebbe piaciuto vincere più gare di due, però alla fine è stato un anno positivo, mi sono divertito. Va bene, si è divertito. E questa è la cosa importante, finché si diverte. Lui è lì, motivato, sì, nonostante gli anni, comunque si diverte, ce la può fare ancora, anche se Márquez sulla Honda sono veramente un osso duro per lui, ma soprattutto l'anno prossimo, perché adesso questa stagione che si è chiusa ci ha rivelato delle cose, ma l'anno prossimo potremo avere delle novità. perché questo Vignales di nuovo con questa moto molto competitiva, ricordiamoci che i test a Valencia è andato più forte di tutti e in due giornate non ha fatto un exploit. Sale su una moto nuova e la moto di Valentino e subito è più forte di tutti. Senti, ma quali possono essere i suoi rapporti con Valentino Rossi? C'è rischio di muro di Berlino? Sì, secondo me il rischio c'è. Vignales è uno che non la manda a dire, ha un bel caratterino, è molto convinto di sé. Non va a fare il vassallo? No. Non è arrogante, non è irrispettoso, però ha la sua personalità e sa di essere un potenziale vincente, sa il suo potenziale qual è, e quindi sicuramente ci sarà veramente una lotta dura fra i due, e secondo me non è escluso che possa ricostruirsi il muro, il famoso muro che ci fu negli anni passati. Sì, il muro che quest'anno si è sgretolato, anche perché il grande sconfitto della stagione mi sembra sia Jorge Lorenzo, che ha perso prima mentalmente che agonisticamente. Dal momento dell'annuncio del suo passaggio alla Ducati praticamente è scomparso dalla pista. Sì, una brutta stagione la sua, opaca, non è mai stato Lorenzo che conosciamo, è andato via di testa, sono subentrati problemi sull'acqua, problemi meteo, non si trovava con la gomma, ma prestazioni alterne, irriconoscibile, perché lui era veramente un computer, e invece ha mostrato i fianchi. Meno male, ha chiuso in bellezza lasciando la Yamaha con una vittoria, quindi si è congedato bene. Però non è Lorenzo che conoscevamo. Interessante vedere cosa farà con la Ducati, moto completamente nuova. Nei test ha dichiarato che la moto gli piace, ha sorriso quando è sceso dalla moto. E questo è importante perché ricordiamoci che Valentino, dopo i primi giri in cui provò la Ducati, arrivò al box, chiuse la serranda, ordinò di chiudere la serranda e molto sconsolato disse: ma questa moto come va? Così, che cazzo è? Esattamente, fa: dov'è il telaio? Questa moto ai tempi non aveva ancora il telaio, e dice: e come fa a andare bene una moto che non ha un telaio? Questa è una cosa che è rimasta un po' tra pochi addetti ai lavori, però lui lì capì subito che quella era stata una mossa molto molto azzardata. Senti, noi ci conosciamo da anni, anche al di là del microfono, parlavamo del Lorenzo post vittoria mondiale, il mondiale precedente. Sì. Ecco, tu mi dicesti: è demotivato, è ingrassato, ha fatto bagordi in estate. Questo era due stagioni fa, sì. Bravo, te lo ricordi, sì, no? Sì, sì, la stagione successiva al mondiale non si è curato, si è dato ad altri divertimenti, ad altri passatempi. La differenza tra quel Lorenzo e questo qual è? No, è che adesso ha preso delle sberle, perché non è mai caduto così in basso Lorenzo come in questa stagione, e quindi è più motivato che in passato, e soprattutto ha una scommessa davanti a sé, perché con la moto con cui Valentino non ce l'ha fatta, lui invece può dimostrare che con la Ducati, anche se è molto diversa, ce la può fare. Quindi è una scommessa proprio personale nei confronti del più grande di tutti i tempi. Quindi per lui è un'opportunità, è una motivazione incredibile questa. Allora, adesso ci fermiamo un attimo per il traffico, torniamo subito e vi raccontiamo del motomondiale che abbiamo vissuto e di quello che sarà attraverso questi quattro personaggi: Marquez, Rossi, Lorenzo e Vignales, il sottoscritto e Roberto Ungaro. A tra poco. Tutti convocati. Tutti convocati. Sul muretto tutto il team di Marquez, che butta in piedi la sua moto a guardare il cielo del Texas. Marquez c'è, vince il Gran Premio degli Stati Uniti, fortifica la sua prima posizione. La difesa di Marquez come Bergomi. È lungo il rettilineo, ma non lo so, è lungo il rettilineo. Vedi, Lorenzo c'è. Ha fatto un vero e proprio capolavoro, raddrizzando un weekend non del tutto difficile, reso difficile da mille fattori. Rossi vince in Catalogna, Rossi c'è. La Ducati c'entra una doppietta con due italiani, due Andrea. Giannone c'è davanti ad Andrea Dovizioso, davanti a Jorge Lorenzo e a Valentino Rossi in quarta posizione. Arriva Kracelo, si guarda intorno come uno spettatore che guarda il panorama, sul nasino verso il cielo. Crutchlow c'è, entra nella storia, si prende ruolo che era di Barry Sheen, l'ultimo inglese che aveva vinto nella massima cilindrata nel 1981 ad Anderstorp in Svezia. Capolavoro di Cal Crutchlow, seguito da un altro capolavoro anche di intelligenza oltre che di guida, quello di Valentino Rossi e del suo team, che riescono ad arrivare sul secondo gradino del podio. Ultima staccata per Daniel Pedrosa, tutti in piedi sul muretto. Daniel Pedrosa c'è, Pedrosa c'è e vince. Pedrosa c'è, torna a vincere davanti a un eccellentissimo Valentino Rossi, a un ottimo Jorge Lorenzo in terza posizione. Dunque, noi abbiamo selezionato quattro personaggi, no? Come facciamo in questi giorni? Perché è inutile ripercorrere il film del mondiale, una roba banale, pallosa. Quattro personaggi che sono Marquez, Rossi, Lorenzo e Vignales. Io e Roberto Ungaro. E abbiamo Carletto Pernat. Ciao Carlo. Ciao ragazzi, eccomi qua. Ciao. Allora, Marquez il vincitore, Lorenzo lo sconfitto. Rossi che si è divertito, però ha perso il mondiale su una moto che inizialmente era più forte. Vignales, come ci raccontava Roberto, subito al pronti via dei primi test, il più veloce, e potrebbe essere quello che per la Formula 1 è il nuovo Verstappen, quello ragazzino 18enne maleducato, questo ha un altro carattere, però il nuovo, la prossima grande cosa, come dicono gli americani, nel moto mondiale. Cosa dici? Ma non sono mica tanto d'accordo con voi, ragazzi, stranamente. No, notizione! Su che guarda, cosa? Ti dico su una cosa, su Vignales. Allora, a me Vignales onestamente sembra il clone di Lorenzo, se devo dirti la verità. Se voi ci fate caso, quest'anno il buon Vignales... Roberto Ungaro sta facendo la faccia da polemica, io te lo dico. Sì, ma io vado fino in fondo. Vai, Carlo. Cioè, io dico questo, Vignales ha dimostrato che può vincere quando va via, come Lorenzo, e ha vinto quando è andato via. Se ci fate caso, nei sorpassi, Vignales non è fortissimo. Andatevi a vedere la gara di Barcellona quando ha fatto tre larghi. Andatevi a vedere la gara, la penultima, quando ha fatto un largo. Nei sorpassi, se ci fate caso, non è proprio la fine del mondo. Non è Verstappen, tanto per essere chiaro. È più un clone di Lorenzo. Quando voi mi fate vedere un gran premio dove il signor Vignales attaccato è passato, io chiedo venia e dico bravo Ungaro. A me Verstappen, se devo essere sincero, mi sembra molto più Iannone, ma non perché sono parte in causa. No, hai ragione in questo, Carlo, come stile di guida, ecco. Assolutamente sì, perché non ha quell'aggressività, non inventa il sorpasso, è verissimo, esatto, questo. È quello che voglio dire io, sì. È solo questo, poi che non sia, che sia fortissimo, lo ha dimostrato e lo sarà sicuramente. Però se facciamo un Verstappen, io fra i bad boys, tra virgolette, ci metto Iannone, è vero che è più Verstappen. Sì. Cioè, sì, come bad boy, se quello che fa emozionare è poi più... sbaglia e cade, certo. Però quando entra fa delle entrate un po' alla Marco Simoncelli. No, su questo hai ragione. È più ignorante in senso positivo, dire. Assolutamente. Sì. Quindi quello se sì. Facciamo un paragone a Verstappen, lo faccio molto di più con Iannone. Non ero d'accordissimo, Carlo, quando all'inizio hai detto vince quando va via, solo quando va via, hai detto. No, ha vinto per quando la gara che ha vinto, perché è andato via. Sì, ok. Io dico quello che vedo, e dico quello che penso dicendo che mi deve ancora dimostrare che è capace a sorpassare Valentino nei sorpassi, scusami, è 7-1 rispetto a lui. Non poi c'è lui gara. È fortissimo, è costante, però ti dico, è più un clone, fra virgolette, di Lorenzo, secondo me. Vedrete che non sbaglierò. Lorenzo è uno che ha vinto dei mondiali, quindi non sto facendo che è un clone di una pippa, tra virgolette, è clone di un campione del mondo. Però ha lo stile di guida suo, va via a dire tutte le gare. E secondo te al box come sarà con Valentino? Fuoco ma fiamma, guarda, oppure... ma guarda, ora che Valentino sia Sonti to me, d'accordo, ci mancherebbe altro e ne ha ben d'onde. Però ragazzi, Valentino incomincia ad avere una certa età, per cui un ricambio, tra virgolette, lo sto aspettando anche lui. poi è chiaro che il tuo compagno di squadra è il primo nemico, ci mancherebbe altro. Il ricambio di se stesso non so quanto lo stia aspettando. Ma non ci sarà, guarda, ti dico subito, il tuo ricambio di se stesso per dire i compagni di squadra. Intanto, diciamoci le cose come sono, ragazzi. Sì. L'erede di Valentino non esiste e non esisterà mai, perché neanche Marquez? Assolutamente, ma nemmeno per sogno, perché Valentino ha quattro cose importanti, che sono la spontaneità, la simpatia, il sorpasso e il talento. Marquez si è giocato tutto l'anno scorso anche con la gente, col pubblico e anche con i piloti, per quelle famose regole non scritte che esistono, che dicevamo una volta, che tu non puoi andare a rompere le uova nel paniere quando non ti giochi niente a un pilota come Valentino, che è una leggenda vivente. Marquez si è giocato un probabile passaggio in Ducati, ricordatevelo. Allora, quello che vi dico. Carlo, secondo me fra piloti forse sì, ma col grande pubblico non si è macchiata la sua figura del personaggio. Sì, però Roberto tu in qualunque circuito del mondo vedi al 90% il giallo 46. Quello, ragazzi, non esiste. Vedi. Assolutamente. In questo Pernat ha ragione. Sì, ma non si può più dire è cattivo adesso, Marquez non è più personaggio. Cioè, non ha intaccato quello che è il suo carisma e il suo riscontro nel grande pubblico. Lasciamo a parte la solita questione dell'anno scorso, non voglio tornarci sopra. No, però stiamo facendo filosofia, sì. Stiamo facendo Mannheimer, cioè l'empatia con il grande pubblico. No, è sempre, voglio dire, è lui, è Marquez, non puoi dirgli niente, comunque è un pilota vincente. Sì, Roby, ti posso fermare un secondo? Vai. Quando è caduto Marquez a tre gare dalla fine, c'è stato un boato in uno stadio. Ti rendi conto di quello che dico? Sì, sì. Però... Ma non è che... Allora, io non voglio sparare su Marx, cioè, ragazzi, per esempio, non posso sparare su un fenomeno, sarei veramente un autolesionista, uno stupido. No, ma è un fenomeno punte a capo. Succede fra i valentiniani quello che tu dici, cioè gli dà molto più argomento per accanirsi, ma a livello generale, cioè per un appassionato del motociclismo, dello spettacolo che vediamo, comunque secondo me non si è macchiata più di tanto la sua figura dopo l'anno scorso. Guarda, non sono d'accordo con te, mi spiace. Meglio così. Hai ragione tu probabilmente, però credimi, io che vedo tutte le gare, sono in tutti i circuiti, ti posso garantire che Marquez ha perso il 25-30% di quello che poteva avere in più. Non voglio dire che non ce l'ha. Sì, ma non se, no, ma da questo punto di vista hai ragione, che non sarà mai Valentino Rossi, cioè non ha la pillo, non ha il carisma. Dai, ragazzi, però alla fine, quando andremo a contare alla fine la carriera di Marquez, che non è come quella di Rosberg già finita, allora andiamo a contare i campionati del mondo vinti e secondo me saranno tanti. Ho l'impressione che hai ragione, su quello potrebbero essere anche più di quelli di Valentino. Sono d'accordissimo con te, perché è un fenomeno punta a capo. Però dico il però per dirti che ancora oggi sarà, anche perché Valentino ha 20 anni che corre, ha creato un mito, una leggenda vivente. Se tu vai in tutti i circuiti, il 90%, l'80%, ragazzi, c'è sta macchia gialla alla faccia della mimosa ligure, come dico io, alla faccia della mimosa ligure. Insomma, questa è la verità. E con i padroni del vapore, che sanno benissimo questa cosa, no? Bravo. Oltretutto, hanno già i padroni del vapore, hanno anche creato già il futuro, ragazzi, perché nessuno mi leva dalla testa che fra 3 anni, quando penso che Valentino smetterà, quindi parlo di 3 anni, lui ha bello confezionato una bella moto ufficiale Yamaha per fare, oltre che Moto 3, Moto 2, anche la Moto GP. E magari ci andrà qualche pilota suo amico, non lo so. Uno ce l'ha, si chiama Iannone. Sì, per esempio. Sì, sì, che tu senti, dammi un voto. Allora sappiamo che Iannone è il tuo figlioccio, no? Sì, vabbè, ma ora sto parlando ma questo è evidente, Carletto. Esatto. Dammi un voto alla stagione di Andrea Iannone. Guarda, in totale gli do 6 e ti spiego perché. Gli do anche tanto, 6. Caspita, pensavo... Ma dico la verità. Bravo, no, perché gli do dei begli 8 per alcune gare che ha fatto. Ha fatto delle gare, a parte la vittoria che ha fatto, Repubblica Ceca e altre gare, ha fatto delle gare meravigliose dove ha fatto vedere cosa vuol dire sorpassare. Ha giocato con Valentino un terzo posto, battendolo veramente. Cioè, Valentina c'è un momento ha detto sto bravo lì perché sennò non faccio nemmeno quarto, tanto per dire la battaglia che ha fatto. Sì, sì. Però gli do dei quattro per quello che ha fatto in Argentina, per la caduta del Qatar. E quindi 8 più 4 fa 12 diviso 2 fa 6. Quindi fai i conti della massaia di Voghera sul foglietto a quadretti, sul foglio a quadretti. Certo, è una domanda che però tu non mi avevi detto, quindi non siamo preparati. Voglio dire, però avete capito cosa voglio dire. Lui adesso lui ha due strade, Andrea. Quella di fare il bad boys come Verstappen e fare delle belle gare emozionando il mondo, magari vincendone una, due, cadendo due o tre volte. Sì, oppure giocare sul mondiale, poi di andare a divertirsi, come sappiamo, dai. Bravi, ma lì fa bene, lo farei anch'io, anche ma, lo faremo chi, tutti. Ma chi non lo farebbe? Lo invidiamo tutti. No, noi no invece. Poi adesso si è fatto il locale su misura, si è costruito il suo locale. Lo so. Però la seconda parte è quella di dire, ma ci porti al locale di Iannone, Bernardo? Guarda, sì, guarda, ci vado i primi di gennaio, se volete venire siete invitati. Ci telefoni? Facciamo la trasmissione di là, vi telefono, andiamo giù. Beh, trasmissione, facciamo finta di fare una trasmissione, sì. Diciamo a Radio 24 che facciamo gli inviati. Sì, siamo nel locale di Andrea Iannone al Carbonio. Vabbè, comunque ragazzi, è stata un'annata molto bella, peccato che sia finita presto. Se magari Marz cadeva prima invece delle ultime due penultime gare, era meglio, ma lo dico sportivamente. Senti, lo diceva lui. Senti, Carlo, posso? Io mi diverto troppo a parlare con te. Posso chiederti un favore? Anche due, se posso, volentieri. Rimane altri 10 minuti. Ma sì, tranquillo, che ci divertiamo. Dai. Ci fermiamo un secondo. Tutti convocati. Io ho comunque sia le idee chiare, cioè il liceo linguistico. A volte anche prima di dormire ci penso, ma sarà la scuola giusta. Al via il 16 gennaio le iscrizioni a scuola e per i ragazzi di terza media non è facile districarsi fra licei tecnici e professionali. Sono Maria Piera Ceci e insieme ad insegnanti, ragazzi, scuola.net e con i consigli di Roberto Vecchioni e Alessandro D'Avenia vi darò una mano nella scelta delle superiori. Scuola. Quale scelta per i nostri figli? Sabato 31 dicembre dalle 11 su Radio 24. Tutti convocati. Io mi sento molto simile, diciamo, all'anno scorso e mi sento abbastanza in forma, motivato per cominciare, e i test sono andati piuttosto bene, direi probabilmente anche meglio di quelli dell'anno scorso, però adesso bisognerà vedere cosa succederà. Ha fatto un vero e proprio capolavoro raddrizzando un weekend non del tutto difficile, reso difficile da mille fattori. Rossi vince in Catalogna, Rossi c'è. Grande soddisfazione, e perché la gara è stata fantastica, è stata una domenica perfetta ed è andato tutto bene dopo un weekend difficile per diversi motivi, ecco, quindi mi sono svegliato bene, mi sono svegliato con le moto che giravano. Purtroppo sono dei punti molto pesanti, perché sarei potuto arrivare davanti e essere davanti in campionato. Invece sono dietro di 22 punti da Marquez, ma poi ne ho due davanti che sono Marquez e Lorenzo, quindi la situazione è comunque molto difficile. E hai pressione e cerchi di fare il massimo senza sbagliare quando sai che puoi vincere il mondiale. Invece quest'anno ormai è quasi andato, ecco, quindi ci possiamo concentrare di più gara per gara e cercare di fare delle belle gare, delle belle lotte e cercare di vincere e di arrivare sul podio. E questo Valentino Rossi in un riassunto sonoro attraverso la voce della sua stagione. A noi fa male personalmente vedere Valentino che perde. Non riesco neanche a vedere come possa sfidare Marquez l'anno prossimo. Carlo Perna sempre collegato con noi, Roberto Ungaro, The Boys qui con me. Quest'anno è stato sfortunato per la rottura, ha fatto anche lui degli errori, cose che in passato non faceva, non ci aveva abituato a questi errori e li ha pagati cari a fine stagione, però è sempre comunque rimasto abbastanza competitivo, cioè non ha perso il decimo nel polso, questo che io voglio dire, comunque c'è. Nelle prove riesce a mettersi abbastanza davanti, avanti meglio che in passato. Certo che adesso è dura, il livello si è alzato e ci sono tanti nuovi protagonisti, perché chi vince anche solo la prima volta poi si sblocca ed è lì protagonista davanti insieme agli altri. E quindi pensiamo a Iannone, che ha fatto delle ottime gare, pensiamo a Zepperna di da 6. No, ma è Zepperna di da 6. Allora, siccome gli da 6, perché noi aspettavamo l'apertura da parte di Iannone di una discoteca da inferno, invece mi porti in un sushi bar va da Milano. Vabbè, ragazzi, avete ragione, però magari non c'è vasto. Ha portato una fotocopia del locale milanese giù e vero che può funzionare. Dai, ragazzi, no, allora, mettiamo un po' di cuore, come al solito, di Carlo, dando un voto basso, perché di solito per il suo Andrea lui guai, no? E lo si critica sempre a Carlo perché è troppo di parte. Ma per tu il l'hai pilota. Detto anche a lui? E invece che gli così, hai dato 6? No, figurati. Come non gliel'ho detto? Qui io mi sono arrabbiato tantissimo dall'Argentina, ma scherzi davvero, te la ricordi l'Argentina? Sì, sì, quando e ti ricordi, mi pare avessimo fatto un collegamento che avevo anche un po'. Sì, avevi ammesso. Avevi dato quindi, del vedi, pollo. Non è che io proprio sono di parte del. Sì, sono di parte perché fa parte, però ho ancora una visione, nonostante per quasi 69 anni, abbastanza normale delle gare. Caspita, voglio dire, per se cui li porti bene. Non sono ancora del tutto alzheimerato, come dico io. Anche se in moto non vai, ma la frequenti, respirare le due ruote proprio ti mantiene giovane. Non c'è guarda, niente da fare. È molto bellissimo. Oltretutto, guarda, Valentino farà la mia fine, nel senso buono. Lui non abbandonerà mai questo mondo, non saprebbe cosa fare. Lascia stare le cose pubblicitarie adesso di Mercedes, quelle della Ferrari, che erano. Perché quelle della Ferrari, se andiamo a vedere una cosa, ragazzi, ve la ricordate? Era tutta una cosa pubblicitaria in quel momento. Ma sì, ma lo è sempre stata, bravo, Carlo. Io sono convinto che sia sempre stato tutto male. Un gran casino. Uno che la pensa come me. Ma sì, ma ricordati dai. Che in quel periodo lì la Formula 1 era zero. Molto bassa, sì. Se prima era zero, adesso è meno 4. Senz'altro, ma quello che mi aveva fatto capire che era una cosa pubblicitaria, era che dopo aver vinto una gara con Yamaha che aveva lo sponsor tabaccaio, se vi ricordate, sì, sì. Il giorno dopo andò a provare una Ferrari con un altro sponsor tabaccaio concorrente. Sì, ricordo. Che è una cosa che non è possibile se non c'è un accordo, chiamiamolo internazionale, fra virgolette, fra maggiori enti degli sport. Punto, e non dico altro. Allora, adesso vi faccio due domande difficili. A te, Carlo Pernat, e a Roberto Ungaro. Credete ancora, ma ditemi la verità, credete ancora di riuscire a vedere Valentino Rossi in cima al mondo, cioè vincere un mondiale? Prima Roberto. Garletta. Secondo me, sono sincero, un mondiale no. Può ancora battagliare, può essere, ma un mondiale sarà molto difficile. Io me lo auguro, vorrei, però sono sincero, è difficile. Il suo treno è stato l'anno scorso, abbiamo sempre detto. Sì, quello sì, lì doveva essere il suo decimo treno, doveva salire per fare il decimo sigillo. Sì. Tu Carlo invece pensi la logica dice quello che ha detto Roberto e sono d'accordo con lui. Il mondiale era suo 2 anni fa, se non glielo scippavano, questo lo penso ancora oggi. Però io continuo a pensare che Valentino, come si allena, come vive le moto ogni giorno, come la sua carta d'identità sia sbagliata, per me c'è una scolorina, lui ha 24 anni, non ha, ne ha 38, lui si può giocare il mondiale, ne sono straconvinto. Sicuramente ha meno chance di quelle che aveva 2 anni fa o l'anno scorso, però secondo me io un 25% di chance gli scrivo, lo dico prima, e battaglierà per vincerlo. Poi dopo bisogna vedere anche la questione tecnica, certo. Perché Yamaha ha fatto tutto nuovo, dal motore al telaio. Non era molto contento a Valencia, se vi ricordate. Adesso dopo la Malesia sembra un di sì, non c'eravamo, non lo so. Un po' meglio. Ecco, la Honda ha risolto quei benedetti o maledetti problemi di centralina unica, essendo un'azienda che mai aveva lavorato con la Marelli, la Honda, quindi ha avuto i problemi i primi 5 mesi, li ha risolti, anche loro hanno un motore nuovo, vediamo. È chiaro che Marquez, chi vince è sempre favorito, questo è chiaro. Non credo Ducati, no. anche Ducati, ti dico, ora dico quello, sai, io non ho mai peli sulla lingua. Abbiamo fatto le prove giù a Valencia, ok. La paura di Ducati e del mondo, no, diciamo, delle due ruote, era che l'impatto Di Lorenzo con una Ducati, dopo aver guidato tutti gli anni Yamaha. Fosse traumatico, certo. Bravissimo. E invece... Anche considerando il fatto di Valentino, ma era un'altra Ducati, parliamoci chiaro. Il primo giorno non è andato male, però ci sono stati di peana, amore a prima vista, amore a seconda vista, fidanzati, di qua e di là. E il secondo giorno, ha girato 8 in... decimi. 8 decimi. Attenzione, un secondo e mezzo da quello che aveva girato con Yamaha. Sì, sì. Beh, ma attenzione, Ducati, eh. Sì, sì, però Dovizioso gli ha dato 3 decimi, Iannone 2 decimi e mezzo, e lui il secondo giorno ha provato l'attacco con le gomme, ci vuole il suo tempo. Quindi calma, sicuramente sarà un bel binomio, perché poi le prime tre gare sono gare abbastanza favorevoli a Ducati, vedi Qatar, Argentina e Stati Uniti, e lì si giocheremo tutto. Perché sai, quando incominci magari vincendo, facendo tre podi, il morale del pilota e anche di chi lavora diventa diverso. Però attenzione alla tecnica delle alette, che le sono state levate. È vero. E Ducati era un bel vantaggio per Ducati, perché aveva studiato tanto. Sì. E a me quello che mi ha dato anche un po', mi ha fatto così, come dicono i francesi, étonné, no? Mi ha un po' stupito, è che le prove sono state fatte con le alette. Ma lo hanno dichiarato perché? Perché volevano mettersi nelle stesse condizioni e capire la differenza e il potenziale. Poi hanno provato anche senza, però sono partiti con le alette per avere un confronto paritetico. Questo... Sì, guarda che poi Pirro, il giorno che eravamo noi, ha provato con l'alette lo stesso, non senza alette. Sì, è quello che mi ha un po' stupito. Sì, quello è vero. Ora sai una domanda che mi faccio, poi risposta non me le do perché non sono un tecnico. Senti, invece vorrei farvi la seconda domanda che avevo in gola ed è questa. Lorenzo, già ne ho parlato abbastanza con Roberto. Allora, c'è un refrain: vince il mondiale, l'anno dopo si presenta in condizioni abbastanza pietose perché ha passato l'estate, l'inverno. Quando era un po' grasso, quando era ingrassato, ti ricordi, Carlo? A mangiare, bere e scopare, giusto? Visto che c'è il periodo natalizio, MBS, cose che vabbè, per cui diventiamo pazzi tutti noi. Però quest'anno invece ha avuto un altro tipo di atteggiamento, cioè quello di chi cala le braghe. E a me Lorenzo mi dispiace molto, perché Jorge Lorenzo è un ragazzo dolcissimo, è stato tante volte ospite a questi microfoni, è sempre molto gentile, molto pacato, certamente non è un fenomeno di simpatia, certamente non buca il video, però è il grande sconfitto di questa stagione. Sono d'accordissimo con te, infatti lui la sconfitta l'ha beccata le prime gare. Bravo. Punto, finito. Lui le prime 4-5 gare si è giocato il mondiale e deve fare mia colpa la grande, perché se l'è giocato lui. Poi lui ha ripreso il nostro amico italiano Claudio, non mi ricordo il cognome, che è di Ragusa, che è un ottimo fisioterapista, sì, ma anche preparatore non mentale ma qualcosa del genere. L'ha richiamato e si è un po' tirato su anche abbastanza bene, però ha un rapporto con Claudio incredibile, perché prima lo prende poi lo lascia andare, poi quando è messo male lo richiama, e ho capito, ma o lo fai un anno o non lo fai. Lui si è giocato il mondiale proprio le prime 5 gare e deve fare mia colpa, perché poi non puoi fare una gara come l'ultima, vuol dire che proprio hai fatto un campionato. Ma io ho sempre detto e ripeto che per me Lorenzo è il pilota più completo di tutti, ma completo non vuol dire più forte, solo che lui c'ha nelle tempie un mosaico. Se c'è un pannellino piccolo, sai, un pezzo di questo mosaico che scende, viene giù il mosaico. Sì, infatti quando lui sta male arriva settimo, decimo, un problema di testa proprio. Bravissimo, ricorda un po' il nostro Marco Melandri, Carlo, vero o no? Bravo, sono quei piloti lì che quando entrano nel loop negativo di testa non c'è niente da fare, però nonostante tutto si è vinto una marea di mondiali anche lui, tra 250 e MotoGP, quindi è un pilota che è il più completo di tutti. Se si mettesse a posto lì, ma secondo me è una cosa genetica, c'è una cosa di carattere. Cioè Valentino è uno che non si abbatte mai, nemmeno nei momenti che dovrebbe, cioè come un toro. Ma sì, c'è una bella differenza, ragazzi. È un'altra cosa, questo è più fragile, ma fa parte anche della natura del campione. Sì, io dico sempre una cosa, che ora lasciami la battuta, che magari è così, che l'anno scorso, quando ha vinto il mondiale 2 anni fa, Lorenzo, Era un po' come Scaiola, che si è trovato un appartamento senza sapere chi l'ha pagato. Lui ha vinto il mondiale senza sapere chi gliel'ha fatto. Credetemi, così fa. Questo è forte. Questa è meravigliosa. Questa. Sì, non c'era nessun intrinciuccio, non c'è stato nessun biscotto. Lui se l'è trovato, sì. Ma non sa nemmeno perché. Sì, sì, se l'è trovato lì, se l'è preso e si è messo a vivere nell'attico che qualcuno gli ha gentilmente donato. Bravissimo. Grazie, Carletto. Grazie a voi, come sempre. Bellissimo. Un abbraccio, ciao Carlo Perna. Ciao. Allora, adesso traffico, poi torniamo per il finale. Tutti convocati. Tutti convocati. Senti Roberto Ungaro, ma adesso che Perna non ci sente più, come vedi Iannone l'anno prossimo? No, Iannone lo vedo bene. Prima cosa perché è innamorato, è molto carico, eh? E quindi, no, a parte gli scherzi. Sì, anche se gli amori di Belen sono fragili come gli ermi di Lorenzo, forse di più. Allora, il suo passaggio è meno indolore rispetto a quello di Lorenzo, lo abbiamo sempre detto, perché lui passa da un 4 cilindri a un altrettanto 4 cilindri, mentre invece in linea la disposizione, mentre invece Lorenzo passa da sempre 4 ma dalla linea al V, e sono un mondo completamente diverso. Poi la Ducati ha un carattere tutto suo, difficile da imparare. Iannone ha dimostrato invece che è andato molto bene, ha fatto quarto nei primi test a Valencia, è andato forte e secondo me deve solo non cadere troppo, deve contenere la sua esuberanza, perché lui è uno così. Senti, abbiamo in linea Lucio Cecchinello, lo saluti tu? Grande Lucio! Ciao Lucio! Ciao Lucio! Ci senti? Non ci sente perché è caduta la linea. Caduta la linea. Alla linea come il suo pilota, che era abituato a cadere tanto. Però poi quest'anno... Adesso no. Vediamo di ribeccarlo. No, io volevo parlare anche di un'altra cosa. Del caso Stoner, cioè che è stato il portabandiera della Ducati. Che magari torna per una corsa, magari si fa rivedere, magari prova la moto... Che cosa ha fatto Stoner quest'anno per la Ducati, oltre a beccare un bel assegno? Immagine fa immagine. Parlare di sé. Lucio! Pronti? Ciao, sono qui con Roberto Ungaro. Ciao Lucio! Come stai? Ciao. Abbastanza bene, grazie, abbastanza bene. Al lavoro non stop, perché tutti pensano che io adesso vado in vacanza, invece non è così. Senti, sono così. I piloti che vanno alle Maldive, tu invece devi già mettere, progettare per gli sponsor, per le cose, perché altrimenti non si tira la riga. Che succede a fine mese? Che succede l'anno prossimo? Riguardo a noi o riguardo a voi? No, riguardo a voi, riguardo a voi, certo. Riguardo a voi. Allora, al momento abbiamo rinnovato il contratto con Cal già da mesi, ovviamente abbiamo già provato la moto nuova e non siamo ancora al 100% con la configurazione dello spec della moto nuova, le specifiche della moto nuova, però ci stiamo lavorando, quindi non vediamo l'ora di tornare in pista. Bene, bene. Comunque c'è un nuovo eroe quest'anno. Posso confessarti tra i 9, una cosa? Craslow è un pilota che piace da impazzire. Io posso dirti questo? Confessarti questo? Allora, ma non da adesso. Sono stato chiamato a condurre una serata dove c'era lui e io ti dico che mi sono innamorato, ma non per modo di dire, perché è una persona che è talmente disponibile, ha un'ironia sua, ha questa ironia naturale, spontanea, è uno che è rimasto coi piedi per terra, è uno che potrebbe essere l'appassionato del bar di fianco a te, ma di un'umiltà, credimi che io non è da tempo che non ne vedevo nei piloti, è una persona proprio che non se la tira, è rimasto in un negozio dove si era stati 35 gradi a firmare poster, è stato lì 45 minuti, grondante di sudore, non diceva beh. Una cosa che nessun altro l'avrebbe fatta. Quante corse gli vince l'anno prossimo? Deve fare sicuramente meglio Lucio di quest'anno. E quindi Non troppe, perché dopo costa troppo i premi. No, è una battuta, chiaramente. Certo, una battuta. giusta. Però è veramente entrato nell'immaginario degli appassionati e nel cuore degli appassionati, perché è diventato padre, va più veloce di prima, è una persona veramente è amorevole, cioè chi lo conosce rimane folgorato da questo bravo ragazzo, che è il ragazzo della porta accanto. Lucio, bravissimo ad aver avuto pazienza a costruirlo, perché chiunque altro l'avrebbe persa quella pazienza. Era stato distrutto dalla Ducati, sì. Tu invece sei riuscito a stargli al fianco e soprattutto a tirargli fuori il suo potenziale, perché ce l'ha, bisognava solo aspettare parecchio e farsi in quattro per fare su tanti ricambi. Tu in quello sei stato veramente bravo. Guarda, un altro che mi è simpatico e fa impazzire è Reddick. Redding, Scott Redding, beh, anche lui. Scott Redding è un altro pilota che a me piace da molto. Un bel animale. Sono entrambi due bei personaggi. Diciamo che Cal ha veramente un carisma particolare, molto, molto ironico, molto semplice. Poi è uno molto diretto. Quando deve dirti una cosa, te la dice in faccia, te la dice in maniera proprio diretta. Sì, sì. È quasi un po', mi ricordo, un pilota ad altri tempi, no? Lo vedi proprio uno vero. Non a caso il primo inglese dopo Barry Sheen, e questo mi ha fatto venire la pelle d'oca, posso sì. dirlo, perché per noi che seguiamo Moto Mondiale da così tanti anni, cioè il primo inglese dopo Barry Sheen è indimenticabile. Lucio, grazie, buon lavoro, ci sentiamo presto. Grazie in bocca al lupo. Ciao Lucio. Adesso stiamo aspettando un altro ospite per chiudere con la rossa, con la Ducati. Senti, a proposito, mentre aspettiamo questo altro ospite per chiudere con la Ducati, quali novità sul fronte moto per tutti? Rimanendo in ambito sportivo, c'è una ventata di novità, perché dopo una discesa in caduta libera delle sportive, perché vendevano poco e quindi si era fermato lo sviluppo dei modelli nuovi, invece quest'anno è arrivata la Suzuki, che pare veramente essere una bomba, 202 cavalli. E tutti la stanno aspettando, e c'è anche la nuova Honda che ha rifatto la Fireblade, non così estrema come ce la si aspettava, come gli appassionati la vorrebbero, però c'è un po' di carte nuove Ducati. In tavola. Ducati, punto di domanda sul futuro, perché il motore nella Superbike, il bicilindrico così, è arrivato abbastanza al capolinea, e quindi magari un 4AV per la serie, questo si sta pensando, si sta dicendo, ma potremmo chiederlo direttamente a... Ti volevo dire, c'è Paolo Ciabatti che ci sta sentendo, più che lui, direttore sportivo della Ducati. Ciao Paolo! Ciao a tutti, hai sentito Ungaro? Ciao. Sì, ho sentito, però devo dire che avendo vinto 11 gare Charles Davis quest'anno, certo, e avendo fatto 3 doppiette nelle ultime 6 gare, tutto sommato direi che non è da pensionare domani, però siccome voi siete bravi e pensate al futuro in largo anticipo, nel cassetto così dei progetti futuri si parla di questa cosa da un po' di tempo, Paolo, almeno questo lo confermi o no? Che se ne parli mi sembra ovvio, perché certo, leggo anch'io i giornali e i siti web, però direi che per il momento il prossimo futuro, quantomeno per quanto riguarda noi delle competizioni, è ancora con la Panigale. Abbiamo un obiettivo preciso, che è quello certo, di vincere un mondiale con questa moto. Crediamo che le performance di Davis e della moto nella seconda parte del campionato dimostrino che ce la possiamo fare, sì, quindi diciamo che siamo focalizzati su questo. Senti Paolo, come tu che l'hai vissuto in diretta, il rientro di Marco Melandri dopo così tanto tempo, come lo hai visto? Cosa pensi? Che matrimonio sarà? Cosa prevedi? Come sta andando? A parte il discorso ginocchio, però vabbè. Se il buongiorno si vede al mattino, mi sembra che sia una bellissima giornata. Battute a parte, Marco è tornato veramente carico di voglia di far bene, con grandissima umiltà. Devo dirti che noi lo abbiamo accolto con piacere, e abbiamo visto questa sua grandissima voglia di ricominciare e di lavorare con la squadra. Mi sembra che tutto sia andato nei migliori dei modi. Anche l'ultimo test è stato sicuramente veloce, e quindi sta ancora cercando ovviamente di capire meglio la Panigale, ha un compagno di squadra che è un bel riferimento, certo. E quindi sa bene anche lui che deve ancora lavorare insieme ai suoi tecnici per cucirsi addosso la moto, però direi che l'ho visto sereno, con grandissima motivazione, con voglia di rimettersi in gioco, sicuramente un pilota che ha vinto tantissimo in tutte le categorie in cui ha corso, e quindi noi faremo di tutto per metterlo nelle condizioni di mostrare il suo talento. Certo. Chiudiamo con una invece, riprendendo, io riprendo Roberto Ungaro. Riprendo Roberto Ungaro. Allora, arriviamo a bomba per chiudere. Jorge Lorenzo. Sì. Roberto ricordava come Lorenzo è sceso dalla sella dopo aver provato la Ducati e ha sorriso. Valentino Rossi, cosa lo diceva non... Ungaro, è sceso dalla Ducati, l'ha messa nel box e ha chiuso la serranda. Erano moto diverse, però i fatti sono un po' questi, Paolo. Sì, io come sai non ero in Ducati in quel periodo, e quindi questa cosa me l'hanno raccontata. Devo dirti che invece sono stato testimone di una presa di contatto di Jorge, che ti devo dire è stato il primo a scendere in pista, aveva così voglia di salire sulla moto che alle 10 in punto è stato il primo a scendere in pista, ha fatto 5-6 giri ed è sceso e ha sorriso, e poi ha sorriso anche alla fine della giornata dopo molte ore sulla moto, quindi devo dire che è stato un primo approccio molto positivo. Non dimentichiamoci che lui ha corso per 9 anni con un'unica moto in MotoGP e ha esordito con quella moto lì, quindi non era così scontato che un primo approccio su una moto comunque diversa fosse necessariamente positivo. Le cose sono andate bene, chiaramente ci ha parlato dei lati positivi e dei lati ancora da migliorare della moto, e sono le stesse indicazioni che peraltro ci hanno dato Dovizioso, Iannone, Stoner e Pirro, quindi sappiamo le aree in cui la moto deve ancora migliorare, però direi che tutto sommato è stato un primo approccio positivo, e visto che poi sulla moto ci risalirà solamente alla fine di gennaio, è importante insomma che in questi 2 mesi abbia avuto un'impressione che gli ha lasciato insomma gli ha lasciato passare delle buone feste. Grazie Paolo, alla prossima. Grazie a voi. Ciao Paolo. Ciao Paolo Ciabatti. Chiudiamo Roberto, io sarei andato avanti altre 7 ore a parlare. A parlare di moto di serie, cioè, ma tanto avremo modo di rifarlo. Assolutamente. Chi ci corre dietro? Nessuno. E se ci corrono dietro noi scappiamo. grazie a Roberto Ungaro, grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, a Vise Falzoni in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani con Tutti Convocati alle 14. Un saluto a tutti.